programma con l'occhi da matto. Di Simone Pizzi. Sì. Belli de casa, benvenuti a questo nuovo episodio di Il Grande Reset, episodio che anche questa volta, eccezionalmente, in maniera incredibile e con tanta emozione, faremo con Francesco Di Muro. Ciao, buona giornata anche oggi. Un tema più leggero, dai, dopo diversi episodi molto impegnativi, diciamo, a un certo punto di vista, diciamo, c'è l'episodio bottleneck, il cosiddetto riempitivo, quello lì che si fa per risparmiare i soldi sugli altri episodi delle stagioni. Di solito sulle stagioni dei 24 episodi, che ne so, l'episodio 14 e il 18, capito? Sì, è quello lì in due ambienti, tre cristiani, esatto, che non porta necessariamente avanti la trama. Mi viene in mente in Breaking Bad l'episodio della mosca là. Sì. Devi ammazzare la mosca. Ma d'altronde, quando tu fai una serie selezionata che deve avere quel numero di episodi, è ovvio che qualcosa ce la butti dentro. Comunque, ragazzi, benvenuti, lo disturbiamo per questa volta, poi dopo, insomma, per un po' di tempo lo lasciamo stare Francesco, perché giustamente ci avrà anche i cazzi suoi. Nel frattempo sistemo le basi e, diciamo, sì, un episodio che voleva essere in una certa maniera, non è venuto come doveva venire, ma non fa niente, faremo comunque una discussione, sarà leggermente più easy, insomma, rispetto alle altre, e poi si ritorna, insomma, alle puntate sulle quali mi sono concentrato di più, evidentemente. Ma questa cosa del questo episodio qua, poi dopo, insomma, entriamo proprio nel merito, non ha neanche riscosso tutto un grande entusiasmo da parte delle persone che di solito comunque collaborano con questa trasmissione. Comunque, prima di iniziare, volevo dirvi già il tema della prossima settimana, così almeno siete già pronti. La prossima settimana si parlerà di calcio, ma di calcio in senso più strutturale, si parlerà della Superlega. Chi è d'accordo, chi è a favore, e anche in questo caso sentiremo delle persone competenti che esprimeranno le loro considerazioni. Poi io farò un po', diciamo, il sunto di questo discorso e cercherò di fare un mio di ragionamento. Però la cosa importante è dare l'opportunità alle persone di esprimere determinati concetti che sono poi quelli che interessano a me, cioè, nel senso, comunque io chiedo e faccio questa puntata anche per capire, cioè non è che lo faccio perché ho già delle idee chiare, insomma, sulle cose. Poi magari su alcune cose ce le ho anche le idee chiare, però o perlomeno penso di avercele, però di solito le mie idee sono frutto di una minore competenza rispetto alle persone che cerco di chiamare in causa. Poi presto ci sarà anche un bellissimo episodio, ma questo poi dopo ne parliamo la prossima settimana, dedicato alle distopie, che insomma stiamo facendo una cosa molto molto carina, molto molto bella, insomma, almeno credo, insomma. Detto questo, io parto con il primo brano, così poi ci immergiamo immediatamente all'interno di questo episodio. Saluto Michela che ci ascolta silenziosamente, il mio amico Christian che, insomma, dopo 10 anni ha scoperto che facevamo programmi in podcast e via dicendo, adesso si è innamorato di questa cosa e mi fa molto piacere iniziamo. Ecco, faccio come Sbano, cioè partono i tasti a casaccio. E rientriamo a studio. Francesco, questo è un brano, il primo brano dei due che hai scelto tu, di che si tratta? Dici. Era Golden Brown dei The Stranglers, e non è un brano a caso per quanto riguarda, diciamo, uno dei primi brani che mi è venuto in mente per quanto riguarda la convivenza civile, incivile, quello che sia, perché, diciamo, il brano principale è la colonna sonora di un film tratto da un romanzo di romanzi che si chiama E qualcuno morì con un falafel in mano, mi stavo sbagliando, che parla bene o male di varie esperienze di coinquilinanza a caso di sto tizio abbastanza sconclusionato che passa da una casa a casa a trovarsi gente sempre più folle, praticamente. Bene. Allora, ragazzi, io inizierei questo discorso sulle convivenze, diciamo, sulle regole della convivenza, che è il titolo di per sé, come ho capito, insomma, anche cercando di interagire con i miei amici e collaboratori di Rantem Radio. Intanto salutiamo anche Leo in chat. che ha un po' disorienta, cioè il titolo di per sé un po' disorienta, perché dice le regole della convivenza, e uno dice beh, che vuoi, cioè, nel senso, di che cosa parliamo? Beh, prima di parlare di esempi, situazioni, contesti, anche cose magari più o meno divertenti o anche snervanti, cioè nel senso, prima di far diventare il grande reset morti di bestemmie, diciamo che qui ci sono diversi soggetti in causa. Prima sono le regole e poi la convivenza. Le regole, diciamo che in una società, in una collettività, in un contesto sociale un po' più strutturato, diciamo, sono indispensabili. Possiamo chiederci: servono le regole? Servirebbero meno qualora ci fosse una certa predisposizione evolutiva, diciamo, nel dare, diciamo, per assunto determinati presupposti. Ma in realtà poi alla fine non è così semplice come possa sembrare, come magari ci raccontano in certi film di fantascienza. In realtà possiamo contestualizzare il discorso che una volta un certo tipo di convivenza, anche dal punto di vista sociale, era più assimilabile. Perché? Perché le società erano più monolitiche, erano più strutturate culturalmente, erano meno integrate nel contesto globale, erano più realtà a sé stanti che comunque in qualche maniera interagivano anche con altre realtà. E chiaramente quindi le regole non erano solo regole di per sé, che poi potevano essere applicate in maniera più o meno dura, più o meno diciamo leggera, ma erano comunque frutto proprio del contesto culturale. Il problema nasce, comunque subentra successivamente, quando noi come individui, ma soprattutto la società come collettività, inizia ad interagire in maniera più organica, diciamo, con altre realtà che sono meno integrate culturalmente da un certo punto di vista, e dove si deve costruire una cultura condivisa, dove c'è l'opportunità da questo punto di vista. Ma chiaramente questo non è una cosa così semplice, così come possa sembrare, e quindi diciamo che la realtà accogliente, quindi il posto dove si va a fare questo tipo di interazione, questo tipo di convivenza, e si va a costruire questo nuovo tipo di comunità, diciamo che è il posto che detta le regole, cercando poi anche magari di ascoltare le varie integrazioni, le varie realtà, le varie differenze. Però chiaramente, venendo meno un certo tipo di struttura monolitica dal punto di vista culturale, possono subentrare delle difficoltà, anche perché uno può dire, cioè, le regole a quel punto, più che domandarsi se sono necessarie, possiamo domandarci se in certi contesti sono giuste, se sono adeguate, se si sono comunque adattate a un certo tipo di trasformazione della società, no? E penso, diciamo, a in Italia, diciamo, stiamo facendo molta più fatica, però insomma ci sono delle realtà a livello internazionale dove la miscelanza di culture ha chiaramente costruito una, sempre nel contesto che non deve essere disorientante dal punto di vista delle regole per chi era magari del luogo, c'è stata comunque l'opportunità in certe realtà di integrare una nuova forma di regole di convivenza, no? Che sono quelle regole che poi alla fine comunque servono per far stare tutti quanti d'accordo, e dove poi alla fine devono diventare una sorta di assunto, di presupposto. Il problema è che al di là del modo in cui si applicano le regole, non è facile che certe regole o le regole possano essere assimilate da tutti come un presupposto, cioè nel senso, come dire, sì, in effetti è così, cioè dovrebbe essere così. Mo noi potremmo fare tantissimi esempi, Francesco, no? Però ecco, diciamo, partiamo da questo. Diciamo che le regole, purtroppo, per fortuna, per come la vogliamo mettere, comunque alla fine servono. Eh sì, ma a prescindere dal fatto che siano formali o informali, comunque, anche, diciamo, banalmente, per dire una cosa, andando più sul generale, poi vado sul particolare, già, che ne so, se la fisica, la chimica non avessero delle regole, sarebbe tutto un casino, non esisterebbe la materia, non esisterebbe la vita, per dire. Ma sto partendo tutto ultra filosofico a cazzo per arrivare al fatto, figuriamoci per quanto riguarda le tante relazioni tra persone, individui, contesti, associazioni, paesi, eccetera, eccetera. Quindi che siano espresse, rigide, oppure spesso le cosiddette regole informali che non sono regolate da nessun regolamento esplicito, quindi dalla legge o altro, servono comunque per garantire, per cercare di trovare la mediazione più o meno ottimale tra un gruppo di persone più o meno esteso. Ovviamente, essendo delle regole, non andranno mai bene davvero a nessuno, però è per garantire che non ci si faccia troppo male tra le persone. Poi non è che se non esistessero regole esplicite, infatti esistono, come ho detto, regole anche implicite, anche informali, non è che se togliamo tutte le regole esplicite poi succede il caos, ci ammazziamo tutti, queste cose qua, non è necessariamente così, non credo necessariamente così, perché se non siamo arrivati a creare la società fondamentalmente, credo, le città, tutti questi tipi di organizzazioni che hanno bisogno di un certo livello di organizzazione che spesso diamo per scontato, spesso noi vediamo quello che fa pisciare il cane, fa cagare il cane in mezzo al sen, raccoglie la cacca e dice dove andremo a arrivare, nessuno rispetta le regole, questo mondo che fa schifo, eccetera eccetera. Sì, beh, è quello, cioè, però nel frattempo non c'è gente che va in giro a mangiare nell'area altri studenti, certo, a caso. No, vabbè, comunque anche quello. Già soltanto con questo già ci sono due spunti di riflessione importanti, perché poi in realtà allora secondo me la prima cosa è capire, cioè poi dopo ovviamente nella ragionevolezza, capire che le regole servono anche, cioè se viste da un punto di vista positivo, servono anche per aiutare un certo tipo di meccanismi, no, di certi tipi di interazioni. Il problema è che, perché io vedo che c'è proprio gente che proprio il principio della regola lo rifiuta di per sé, no? Eppure essere critici nei confronti delle regole è una cosa di per sé importante, qualora le regole siano irragionevoli. Cioè, ad esempio, faccio un esempio stupido che non mi è mai capitato, però immagino che da qualche parte ci possa essere, no? Le regole di convivenza all'interno di un appartamento con dei coinquilini che fanno magari università diverse, però magari stanno nella stessa città, dove a un certo punto si dice guarda, dentro casa non si ascolta la musica. Cioè, chiaramente è una regola insensata, cioè nel senso è un qualcosa che in qualche maniera diventa fuori dalla ragionevolezza, diventa, no? Prevaricante a un certo, esatto, punto di vista, cioè. E allora quello è comprensibile quando uno fa quello, però si può arrivare a dire non si ascolta la musica in questi orari, oppure se la vuoi ascoltare in questi orari mettiti le cuffie, queste cose qua, in questa situazione già è un qualcosa, già è una mediazione. Oppure quando non ci so io che mi dà fastidio la musica, però anche si potrebbe fare, perché metti che quella persona sta a casa tutto il giorno, non ti può ascoltare la musica, cioè bisogna capire dove c'è, poi avviene un, in certo qual modo l'intolleranza di una persona diventa la prevaricazione nei confronti di altri. Esatto, infatti vedi che poi alla fine c'è la mediazione, no? Cioè la mediazione culturale all'interno di un contesto dove le regole principali comunque in qualche maniera vengono plasmate a seconda del contesto, no? Quindi ovviamente anche dal punto di vista culturale, cioè è chiaro che cioè, ragazzi, dalle X e Y questo non si fa, è diverso da dire questa cosa non si fa in assoluto, cioè è come infatti. Cioè nel senso, come dire nel mio stato se vai in giro con i calzini in faccia, cioè nel senso allora bisogna essere tutti quanti con i calzini in faccia, in quel caso appunto il concetto di regole di convivenza viene sostituito totalmente da prevaricazione, da ideologia, da tutto quello che è, ovviamente. Poi sì, poi dall'altro punto di vista c'è anche la gente che, diciamo, per disposizione personale, che poi alla fine anche loro sotto sotto in realtà è di stampo prevaricatore, gente vabbè, ma che questa cosa che non si può ascoltare musica, io voglio ascoltare la musica quando voglio io, come voglio io, che vuoi da me, la mia vita, eccetera eccetera. Sì, però renditi conto che comunque abiti insieme a della gente e questo potrebbe comunque comportare problemi, dar fastidio, cioè nel tuo desiderio di libertà assoluta, di non voler essere, diciamo, non avere delle imposizioni, perché in qualche modo ti vedi come un'imposizione o un qualcosa che limita la tua libertà, non poi vai a rompere il cacchio agli altri. E potrei fare l'esempio dal punto di vista più generale, cioè mettiamo le regole per limitare la velocità nelle strade, nei contesti urbani, eccetera eccetera. E questo è fatto per limitare una libertà oggettivamente, ma però comunque per garantire che non ci siano incidenti, che la circolazione vada un po' più fluida. E poi c'è la gente: ah, ma che cazzo, io corro, faccio quello che voglio. No, ma questo tu pure, ecco, quando tu hai fatto l'esempio della cacca del cane, ad esempio, cioè, sì, cioè questa cosa non, cioè, apre due aspetti fondamentali. Uno, io le regole le assoggetto a seconda di come va a me, e due, le regole valgono per gli altri, cioè nel senso che, ecco, io porto il cane a fare la cacca, non raccolgo la cacca, però se vedo una cacca o acciacco una cacca ad un cane, dico: guarda questi pezzi di merda che hanno lasciato la cacca per terra, no? Cioè nel senso, quindi per me valgono fino a un certo punto, ma là è un po' come il problema sono i negri, nel senso, cioè, arriviamo sempre là. Sì, no, nel senso, nell'assurdo, no? Cioè, ovviamente estendendo un po' il discorso, alla fine la colpa è sempre degli altri, cioè le regole valgono per gli altri, pugno duro. Poi però se è il nostro figlio che ha tamponato 64 macchine, ha fatto finta di niente, è scappato, o via dicendo, vabbè, ma sono ragazzi, cioè, perché poi no. Ma però prima di arrivare a questo, io partirei, secondo me, da un punto nel quale secondo me molti non partono quando si discute di queste cose, cioè nel senso che il primo aspetto, il primo approccio, chiaramente, ovviamente, che noi abbiamo con le regole della convivenza è la famiglia. Cioè noi vediamo la famiglia come una, anche qui, una struttura spesso monolitica dove le regole sono molto verticali, cioè nel senso comunque arrivano dall'alto e tu ci devi da sta e basta. Però in realtà poi alla fine, quando cresci, ti rendi conto che in qualche maniera c'è già anche lì una sorta di mediazione, che tu sai che devi rispondere a determinate regole che sono il frutto magari della preoccupazione dei genitori o perché magari hanno un atteggiamento più rigido, roba del genere, ma che comunque inevitabilmente si adattano anche al fatto che tu cresci, che hai degli interessi diversi e hai comunque necessità di fare delle esperienze diverse. Eppure è quello, secondo me, il primo impatto che noi abbiamo, e già lì ci formiamo diciamo un'idea, a seconda del modo in cui viviamo, cioè come subiamo o viviamo positivamente le regole in famiglia, già noi ci costruiamo, diciamo, il nostro rapporto con le regole. E questo ovviamente, purtroppo, essendo poi il nostro imprinting con la vita, la famiglia, spesso ci possono essere dei risultati positivi, come tante volte anche dei risultati negativi. Non so se sei d'accordo su questa mia deriva un po' così. Sì, è un argomento ampissimo, già ha solo a denucleare tutto il tema alla famiglia, quindi non so quanto espandere, perché davvero si potrebbe parlare all'infiniterno. Però sì, tendenzialmente, sì, quasi generalmente, diciamo, la prima struttura, diciamo, da un certo punto di vista sociale, in cui per struttura sociale si intende che ci sono delle regole, anche, ripeto, quando non ce ne sono, è il nucleo familiare, da quello che è composto. Può essere pure solo monogenitoriale, certo, sì. Oppure, che ne so, sei orfano, quindi se è solo zio, oppure l'istituto che ti sta accogliendo, queste cose qua. Basta per dire qualcosa. Ah, scusa, pensa che stessi per dire qualcosa. No, io sto zittissimo. E che volevo dire? No, niente, quindi in certo qual modo anche lì, sì, mi ha detto, arriva una mediazione anche diciamo non dichiarata, anche informale, anche se il genitore più deve fare che cazzo voglio, deve diventare un robottino mio figlio, che deve diventare come me, deve essere uguale a me, eccetera eccetera, non deve sbagliare di una virgola. In realtà non riuscirei mai a fare così, quindi già un certo livello di mediazione, perché comunque già il fatto che da piccolo te non c'hai orari per scagazzare te scagazzi come capita, già questo, diciamo, certo. Sì, ti costringe già banalmente a sta sveglia a notte, queste cose qua, per dire proprio la cosa più banale che esiste. Ma infatti il nostro rapporto con le regole inizia abbastanza presto, anche perché regole a volte sono proprio meccanismi esistenziali, non sono, noi le vediamo come regole, ossia come una codificazione, ma in realtà quando tu smetti di cagarti addosso a cagare sul vasetto, quello è già, come posso dire, un indirizzare te verso un diciamo un contesto più evoluto e ovviamente dove non puoi cagarti addosso, cioè nel senso, ma per tanti fattori, no? Non solo una questione estetico, diciamo, olfattiva, ma anche una questione proprio igienica, cioè nel senso, poi dopo, perché penso che, mo io non so, cioè una cosa che mi piacerebbe fare una volta è parlare di come si sono strutturate antropologicamente nella cultura umana le regole, a partire dalle più semplici e quelle più basilari nella notte dei tempi, cioè nel senso che chiaramente noi tante volte vediamo, cioè, delle regole come qualcuno che dice devi fare questo, devi fare quell'altro, in realtà spesso le regole sono servite proprio per bypassare, per superare dei problemi anche dal punto di vista sanitario, da un punto di vista igienico, da un punto di vista alimentare, no? Quindi c'è tutta una serie di situazioni che poi ovviamente... Sì, infatti nessuno ci obbliga, almeno dove è possibile, nessuno ci obbliga a lavarci le mani, quando in realtà è una cosa da fare, è un presidio, diciamo, il primo presidio medico chirurgico che ci già di base ci permette di evitare tante di quelle contaminazioni, quelle malattie che non immaginiamo comunque. Eppure, cioè, non ci sono delle regole, magari sì a livello, cioè a casa tua tu puoi tranquillamente, cioè a casa tua è sempre vietato ammazzare la gente, però puoi anche decidere di non lavarti, tra virgolette, magari sì puoi decidere di non lavarti dopo aver ammazzato la gente. Questo dobbiamo chiedere a Gualdi se lo fa, se è possibile o meno. Niente, questo volevo dire, per dirti comunque ci sono delle regole che non necessariamente bisogna codificare, ma ce ne sembra la stessa cosa alla fine, però comunque sì. servono. Allora, c'è Leo a devolvere questo argomento, perché purtroppo, cioè, non sono antropologo, non sociologo. No, lo so, ma io pensavo cioè nel senso, per esempio, quando si parlava del le religioni che applicavano certi tipi di limitazioni verso un certo tipo di alimento, che noi oggi lo vediamo, cioè ovviamente c'è un costrutto dal punto di vista ideale, c'era una ragione, magari però c'era una ragione, di scarsità, esatto. Oppure, anche semplicemente, oppure anche di contaminazione, esatto, all'epoca quella era contaminata, quella cosa, se moriva, poi magari questa regola col tempo migliorava le condizioni igienico-sanitarie, esatto. Quindi banalmente i maiali, che ne so, e i maiali, io pensavo proprio ai maiali, poi dopo alla fine magari certe regole sono rimaste come imprinting culturale e religioso. Ma le religioni di base sono le prime, cioè una delle prime forme di regolamentazione sociale, esatto, per quanto noi ora diciamo che sono oramai superate, eccetera, eccetera, per me sono state essenziali a un certo punto dell'evoluzione. Io diciamo non spiritualista, per me non, le religioni non necessariamente sono sta cosa che appartengono al passato, diciamo, sono più da ridimensionare secondo me dal punto di vista individuale, ma vabbè, questo è un altro argomento. Però per dirti, le prime forme di regolamentazione, prima che siano state, diciamo, gli stati, i villaggi, tutto erano praticamente che permettesse di regolare in modo più ampio una società, era proprio la religione. Però lì si va più in un ambito molto più dogmatico, perché dice se non fai questo subirai la punizione divina, se non fai se fai quest'altro, eccetera, eccetera. Però ripeto, partivano sempre, secondo me, da non antropologo, da quell'esame di antropologia che ho fatto 10 anni fa. Parti sempre per impartire delle hanno delle ragioni alla base. Le religioni da quel punto di vista sono state essenziali, no? Cioè, nel senso, comunque magari tu non riuscivi a spiegare alla società il perché di certe regole, le imponevi con la paura, con la religione. Siamo arrivati a una situazione in cui possiamo fare a meno in qualche modo delle religioni, dobbiamo anche ringraziare le religioni. Esatto, si fa molto a dire se non ci fossero state le religioni saremmo avanti 1000 anni. È anche vero il contrario, esatto, infatti. Sì. Cioè, Leo ci fa una domanda in chat abbastanza impegnativa, devo dire la verità, perché lui ci chiede dove finiscono le regole, dove iniziano le imposizioni. Aspetta, so io rispondere. Secondo me la domanda è mal posta. Forse volevi chiedere che ore sono? esatto. Ma poi guarda, Leo, che la risposta è dentro di te. Ma chiaramente però è sbagliata chiaramente. No, diciamo che le regole sono già imposizioni. Cioè, il problema è capire quando il livello dell'imposizione, cioè, diciamo, la regola può essere, diciamo, un suggerimento comportamentale, e in alcuni casi diventa un'imposizione, perché chiaramente, cioè, ti sto dicendo che questa cosa non la puoi fare, e non la devi fare, non ci sono cazzi, cioè, su quello, no? Però è chiaramente c'è una componente soggettiva, forse vuoi dire tu. Sì, diciamo che è sempre labile, no? Cioè, nel senso, tu vivi in un contesto dove magari quella collettività di 5 persone è in grado di assimilare in maniera naturale determinate regole autoimposte o per loro comunque sottintese, e invece ci sono magari un contesto di altre 5 persone che non riescono ad assimilarle, quindi alla fine la regola deve diventare, deve fare il suo ruolo, che è quello ovviamente di percepire come un'imposizione, esatto, cioè quindi di regolamentare in maniera più codificata, perché chiaramente tu non sei d'accordo, io non sono d'accordo, uno non è d'accordo, ci deve essere un cappello. Poi chiaramente questa cosa può trascendere ulteriormente e diventare poi chiaramente un'imposizione più nel senso, come la vediamo noi, cioè dittatoriale, no? Ad esempio, oppure dogmatica, quindi quella cosa quando diventa più assolutista. Ma l'imposizione di per sé, qui poi stiamo facendo una scivolata terminologica dove c'è una transizione che è talmente ampia tra regole, imposizione e imposizione rigorosa e dogmatica, no? Cioè nel senso, ci sono milioni di sfumature in mezzo e ovviamente più vai verso... Sì, è messa in dimentico che c'è anche una componente estremamente soggettiva. Per esempio, l'imposizione del che ne so, no, si esce, c'è il coprifuoco e non si esce di casa, non lo so, delle cose molto strane. Per esempio, non si stringono legami di sangue con gli ebrei, cose qua. A una persona può sembrare, cioè che aderisce a sta cosa, non può sembrare imposizione, capite? Per lui è una cosa bella, una cosa naturale, oppure certo. È una cosa. Invece un'altra persona può subirle come un'imposizione, come la stessa cosa, che ne so, non si fanno schiamazzi, non si corre in autostrada, non si ammazza la gente, diciamo, una persona, un serial killer per lui è un'imposizione, per lui viene percepita come qualcosa, ma che venne rombo cazzo, per dire, cioè anche ho fatto sempre degli esempi estremi, sì, per far, sì, capire, certo, la, certo, parte mediana. Cioè, sì, anche se poi secondo me ci sono dei serial killer che la capiscono la regola, magari la condividono, sì, capiscono, però loro hanno questo impulso, cioè nel senso per loro è una cosa incontrollabile, no? Magari, no, io non lo so, sto a dire una cosa così, però vabbè, non volevo entrare, cioè non entriamo, sì, sì, sì, in questo, sì, comunque andiamo, la seconda transizione la seconda transizione che ci porta sempre più verso la violenza dell'esistenza, della vita di tutti i giorni, è la scuola. Cioè tu comunque alla fine esci da un contesto di regole che può essere più o meno amichevole, più o meno amoroso, o amorevole, scusa, per entrare in un contesto dove alla fine la regola si istituzionalizza, quindi tu hai questo primo impatto verso quello che è ovviamente la società, la civiltà più a largo termine, dove le regole non sono più, diciamo, mamma che te strilla, ma le regole sono una istituzione, una sovrastruttura che è intorno a te e sulla quale, con la quale tu devi imparare a convivere, ovviamente sempre con le più o meno difficoltà del fatto di saper essere in grado di saper accettare il fatto che quelle regole esistono, ma anche lì ci sono delle ragioni e poi ovviamente come in tutte le altre situazioni sono delle applicazioni buone, corrette, delle applicazioni. Poi qui parlare di corrette, buone e cattive è sempre come di mettere rosso e verde piuttosto che altro, cioè ovviamente purtroppo per semplificare in una puntata come questa, diciamo, ci sono delle applicazioni più morbide, più atte all'imprinting culturale, delle regole più impositorie, ecco, diciamo così, e torniamo un po' a quello che diceva Leo, dove praticamente la scuola, il professore, il preside ti impone quel tipo di comportamento con una violenza anche dal punto di vista proprio dell'applicazione della regolamentazione, quindi dell'uso, di coercizione, di punizioni, di qualsiasi cosa possa essere. Però questo è comunque una seconda transizione nel quale ci facciamo già il secondo step verso capire il fatto che stiamo andando verso qualcosa di più grande della nostra famiglia, ossia la comunità, la società, che comunque è lì e ci aspetta. E poi ovviamente altri esempi più importanti sono quelli del coinquilinaggio, di cui abbiamo già più o meno parlato. Poi non so, Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa. No, non saprei dire niente. È meglio di è sempre all'uff un altro posto secondo me è l'ufficio. Il lavoro. Barra ambiente di lavoro, esatto. Cioè, nel senso, comunque tutti quei contesti dove tu sei costretto, tra virgolette, perché chiaramente non è che tu sei costretto a lavorare, sei costretto perché il contesto nel quale viviamo ti impone comunque di fare cose per poter sopravvivere, e tra queste cose per poter sopravvivere ovviamente il lavoro, e quindi il contesto di lavoro, che può essere un ufficio. Io metto l'ufficio perché è la cosa che mi è più simile, ma può essere un cantiere, può essere qualsiasi tipo di altra situazione dove ovviamente c'è un'interazione con un gruppo di persone con le quali devi condividere un obiettivo, spesso, a volte non è neanche necessario, però devi condividere un obiettivo che è quello di chiudere quel contratto, finire quel palazzo che stai costruendo, o insegnare agli allievi, insomma, che ne so, quello che gli serve per poter passare all'anno successivo. Insomma, ci sono milioni e milioni di contesti, però già qui dove noi ci approcciamo in maniera più matura, dove il contesto si aspetta da noi che ci sia un approccio più maturo verso le regole stesse, dove le regole diventano più evolute, più complesse, ma diventano allo stesso tempo anche più differenziate a secondo dei vari contesti. Forse è il posto dove cominciamo già un po' a disorientarci, perché se non assimili certi meccanismi, in certi ambienti si dà per scontato, ritorniamo al principio di partenza, che ci sono delle regole, e non è detto che quelle regole siano compatibili con te o con la tua cultura o col modo in cui tu sei cresciuto. Il che poi ovviamente qui entrano 50 milioni di fattori, insomma, con i quali tu e quel tipo di regole non puoi andare d'accordo, insomma. Non lo so, possiamo fare degli esempi? A me in questo momento non mi vengono, anche perché gli operai sono arrivati e stanno già trapanando, ed entra una polvere che mi sta chiudendo la gola, però cercherò di portare a termine la trasmissione in qualche maniera. Vedi che parliamo di contesto di lavoro, insomma, anche perché che ore sono? 7.35, secondo me forse non dovrebbero iniziare alle 8, però comunque non facessero come vogliono. le regole, insomma. E che dicevamo, scusa? No, qua per dirti, uno si può ribellare: ah, che palle sti rumori, che palle sta gente, non la voglio sti operai di merda. Ok, però poi devi accettare che non ti rifanno il palazzo, eccetera eccetera. Perciò c'è sempre una sorta di mediazione da sto punto di vista. Ci sono pro e contro, diciamo. Cioè, è vero che può essere vissuto come un fastidio, come un qualcosa, però devi vedere cosa provi, quanto, diciamo, l'intolleranza, sto fastidio ti porta avanti. Per esempio, cioè, se ovviamente a un certo punto sto operai davvero iniziano a cagare nelle buste, a lasciarla a terra, cosa che succedeva o succede ancora nei cantieri. No, questo non è, perché adesso quando installano un cantiere installano subito il bagno chimico, la prima cosa. Sì, sì, ma una volta io l'ho vissuto, il tempo in cui si cagava sui sì, avendo pure, diciamo, genitori, cioè, certo, parenti, certo, che sono del mestiere, quante buste di cagate ho trovato in giro. bello, mi piace. Beh, io ho cagato sul quei mucchi, non, come si chiamano, dei calcinacci, insomma, cioè, sì. Perché una notte mi stavo proprio a cagare sotto, ho fatto fermare la macchina di un amico mio e ho detto: ah, fermate lì, c'era sto cantiere, c'era sto mucchio di calcinaccio, cioè, tipo, visto quando metti le uova nel coso della farina, no? La stessa cosa, insomma, in mezzo. Ma no, più che uova nella farina, quando tipo il gatto nella sabbietta. Sì, no, però mi veniva proprio l'immagine, perché siccome che era un cumulo, no? Hai visto quando tu fai la farina, fai il buco in mezzo tipo vulcano, sì, e ci metti le uova dentro, la stessa cosa, insomma, vabbè. Ma poi l'ha sotterrato, Sì, poi ho messo solo sopra. Proprio un gatto, no? Proprio un gatto, esatto. Che poi tu immagina, insomma, la mattina dopo, e qui le vedi le regole di convivenza, lì non c'entrano più un cazzo, lì è proprio la frontiera quasi da quel punto di vista. E no, comunque è chiaro che tutto diventa una mediazione alla fine, cioè inutile, perché tu, per esempio, tu vedi forse una delle più dirette forme di vita democratica che noi facciamo nella nostra vita è proprio il condominio, no? Il condominio dove si decide tutti quanti insieme, la maggioranza c'ha ragione. Spesso e volentieri ovviamente questo ti porta in aperto contrasto con le persone, perché poi ognuno purtroppo è abituato a fare per cazzi suoi, ognuno vuole la lampadina verde invece che blu, ognuno ha tutta una serie di cazzi che è, oppure quando succedono i vari problemi, le infiltrazioni, le cose, tutta una serie di problematiche che io nei miei anni di assicurazione ho visto milioni di volte, dove la gente discute e litiga per le più disparate situazioni, ovviamente non capendo che c'è una sovrastruttura, c'è una regola, ok? Ci sono un regolamento, e quello è che sono le volte, quindi quando poi la forma diventa, la forma di regolamentazione e democrazia diventano così dirette, così vicine a noi, che la rifiutiamo quasi, cioè nel senso, se fosse per me questo palazzo sarebbe tutta un'altra cosa, no? Poi, purtroppo, cioè, diciamo che le forme di convivenza noi ne abbiamo viste tante, come le regole della strada, cioè nel senso, le regole della strada sono molto articolate proprio per tutta una serie di necessità e di ragioni che sono indispensabili anche alla sopravvivenza addirittura, cioè nel senso, qui non parliamo neanche più di, diciamo, quieto e civile vivere, qui stiamo parlando anche proprio delle regole del risarcimento, dei danni, dei feriti, dei morti, di situazioni e roba del genere. Però anche lì, anche in quel contesto, c'è sempre la persona che pensa che quelle regole valgano per tutti tranne che per se stessi, o perlomeno quando la situazione si riflette verso di noi le adattiamo, cioè nel senso, a seconda di che no, per me è così, no, allora no, non è giusto, perché faccio l'esempio più stupido, questa proprio è la base del codice della strada: veicolo fermo, veicolo in movimento. Se il veicolo fermo è in doppia fila e quello in movimento vuole uscire dal parcheggio e urta il veicolo fermo, anche se il veicolo fermo è in doppia fila, che dovrà essere multato per il fatto di essere in doppia fila, comunque il veicolo fermo non è attivo nella situazione, quindi è il veicolo in movimento che ci ha torto, cioè comunque sempre è inevitabile che sia così, oppure il veicolo da dietro che prende il veicolo davanti. E io vedo gente che litiga su questa cosa, no, non è così perché quella ha frenato all'ultimo, c'è una regola. La regola sta lì proprio perché tu non sarai mai in grado di venire a capo di questa situazione, perché tu pensi di averci più ragione di quell'altro, quindi è inevitabile. Quindi ecco dove le regole diventano imposizioni, rivenendo un po' anche a Leo, e dove è indispensabile che lo siano, perché altrimenti non ci sarebbe una, cioè nel senso, non si verrebbe a capo di una situazione come questa. Poi chiaramente lì poi subentrano questioni di assicurazioni, quelle, ladri, tutto zozzona, perché poi chiaramente a noi dopo diventa il microcosmo del complottismo di cui abbiamo parlato anche nella volta scorsa, dove il mondo è talmente stronzo, ce l'ha con me, e quindi è un complotto, perché ragazzi vedo anche questo, diciamo che diciamoci la verità, insomma, non so che ne pensi, Francesco. Non saprei cosa aggiungere, perché effettivamente è così per alcune situazioni. Infatti, tutti sti deliri di ce l'hanno con me, eccetera, eccetera. Ma viene sempre per il fatto che, giustamente, quando una regola nei nostri confronti la vediamo come una limitazione, però nei confronti degli, però quando sono gli altri che poi non rispettano quella regola e quindi va ancora più a limitare noi, a romperci il cazzo noi rispetto all'aver rispettato la regola stessa, ci se ne accorge, però è sti cazzi, è sempre comunque sto doppio standard è insito in quasi tutti, ma magari uno ci deve pensare due volte, eppure è allenato, diciamo, a capire, però comunque di base è insito in tutti noi sto bias, sto fatto che è proprio, no, non saprei cosa aggiungere in modo davvero brillante e costruttivo, cioè se solo no. Però ecco, io andrei proprio sulla chiusura della storia, proprio sul fatto che c'è questa cosa della visione della regola che alla fine vale in senso generale, e però per noi, nel nostro microcosmo, noi la regola la vediamo sempre diversamente, cioè diventa giusta quando noi la applichiamo verso l'altro, diventa una brutta imposizione cattiva quando la regola viene applicata verso di noi. E non c'è niente da fare, io l'ho visto. Ecco, un'altra cosa mi è venuta in mente proprio adesso mentre che dicevo sta cosa, nei miei anni in cui ho giocato tanto a calcetto e facevo i tornei e facevo tutte quante le il comportamento dell'arbitro, quindi vedi proprio la figura di colui che applica le regole, subisce sempre, come posso dire, un atteggiamento di contrasto nei confronti di chi le regole le subisce, perché quello finirà sempre per essere lo stronzo, quello malvagio, quello cattivo, che alla fine in realtà sta a fare come mamma cattiva che non mi fa mangiare tutto il vasetto di Nutella in una volta. Esatto, bravo, esatto, in principio è lo stesso. Poi c'è, cioè, Leo dice non so che tempo avete vissuto, non ho capito il Enerino. Forte il fatto della cacca, ma non solo il tempo, anche il luogo geografico, dai, diciamo, cerco di essere, voglio essere razzista verso me stesso, dai. Ma guarda, in realtà io sì, ok, lui diceva del fatto della cacca, ok, sì, vabbè, c'è sta, dai. In realtà io quello che avevo fatto era di notte, cioè il cantiere era chiuso, io era un cantiere che stava lì in mezzo alla strada, mi stava sentendo male, sono andato dietro l'angolo, c'era sto cumulo. Piuttosto... No, non parlavo forse più del fatto della cacca nelle buste. Ah, nelle buste, ok, sì, sì. No, beh, in quella in effetti non l'ho mai sentito manco io, però è divertente questa cosa della cacca nelle buste. E vabbè, comunque, dai, questo è un po'... diciamo, come chiudiamo questa puntata? La chiudiamo, non lo so, dicendo che secondo me le persone dovrebbero rendersi conto in generale che quello che noi cerchiamo di fare, noi, cioè che quello che il contesto cerca di fare è cercare di mettere le persone nelle condizioni di poter interagire nella maniera più serena possibile. Non ci sarà mai, in generale, soprattutto sì, quando i contesti sono diversi, un accordo, un'armonia unanime sul modo in cui si vivono determinate cose. Quindi ecco che le regole sono un fattore indispensabile. La cosa sulla quale secondo me bisognerebbe lavorare in generale, qui lo dovrebbero fare gli educatori, i genitori, i professori, gli psicologi, anche magari dal loro punto di vista, nel loro strumento che possono utilizzare, è quello di far capire che le regole non sono un contesto è solo ed esclusivamente soggettivo, dove vale l'importanza di quella regola a secondo di verso chi è applicata, perché questo è un po' il principio, cioè far capire che le regole sono regole, che mi piacerebbe vedere a Roma quello che ho raccontato tante volte, vidi in Svezia di fronte al mio hotel quando sono uscito e c'era sta signora che tampona un altro signore, scendono, il signore la prima cosa che fa è preoccuparsi se la signora sta bene, nonostante che era lui stato quindi tamponato, si scambiano amichevolmente i dati dell'assicurazione, si stringono la mano e arrivederci e grazie, cioè nel senso sì, noi... questo atteggiamento più proattivo, perché si è visto a volte che quando diciamo di regola tu cerchi in qualche modo di aiutare di base, di aiutare quel po' di più, di essere più aperto verso fare qualcosa per gli altri, diciamo c'è un maggior facilità comunque di convivenza e di altro. Quando invece fai solo il tuo e basta, pure non fai male, però già predispone un problema. Già, per esempio, che ne so, il fatto che tu devi parcheggiare, c'è solo un posto, comunque cerchi di parcheggiare in un modo da non andare troppo sotto un'altra macchina, perché poi magari farebbe problemi di manovre, tra virgolette. Già pure questa, cioè, sto facendo una cosa banalissima per dire, già solo questo è una cosa che nessuno ti obbliga, tra virgolette, diciamo, o meglio devi stare nel tuo spazio eccetera eccetera, però ti puoi mettere magari un po' più comodo, che ne so, non sto dicendo cose a caso, scusami, aiutami ad uscire da sto tunnel. No, mentre io stavo a vedere Leo che posta un articolo sui gabinetti pubblici, vabbè, poi dopo lo vediamo Leo, perché Bucca Drento il grande Leo, vabbè, comunque dai, abbiamo capito, insomma, fondamentalmente, ragazzi, che le regole sono importanti. Bisogna essere critici nei contesti dove ovviamente diventano delle imposizioni anche insensate, dove secondo noi comunque queste regole ci privano della necessaria libertà d'azione, anche indispensabile per poter esprimere noi stessi, ma dobbiamo comunque essere anche abbastanza razionali e sensati da capire che non è che una regola di per sé è un'imposizione che ci libera la nostra libertà di espressione, insomma. Quindi, cioè, nel senso, perché poi il problema è che diventa che c'è la regola, quindi non sono più libero di fare come mi pare, perché purtroppo ci sono tutta una serie di passaggi che rendono indispensabili ovviamente le regole e che sono lì anche per aiutarci fondamentalmente, e mi piacerebbe che le persone riuscissero a comprendere che bisogna sempre fare cose che oramai non siamo veramente più abituati, fare quello sforzo in più nei confronti degli altri proprio in favore del fatto che è giusto, insomma, che a parte questo porta anche dei benefici dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico, cioè comunque aiutare gli altri, cioè, e spesso uno pensa faccio sta cosa in più, ma poi a me che me ne vede, cioè antepone sempre dal punto di vista utilitaristico immediato, diciamo, però a lungo termine porta dei benefici anche avendo ragionato solo dal punto di vista prettamente utilitaristico, a me che me ne vena, comunque essere proattivi, essere impegnati anche a fare qualcosa, sempre più spinto, un filino più spinto verso gli altri che solo verso se stessi, magari nell'immediato non te ne torna niente, però a lungo andare, cioè, magari ce ne sarà uno o due che non ti dicono manco grazie, queste cose, però ci sarà altra gente che poi ti verrà aiuto quando avrai tu un problema, una situazione. Ma già anche, per esempio, a volte, cioè anche spesso, anzi, ci sono degli studi, anche fare qualcosa di positivo per gli altri porta dei benefici a prescindere dal punto di vista di stress, di tolleranza verso le difficoltà, eccetera eccetera, cioè, quindi comunque senza considerare il fatto che comunque una pacifica convivenza ci rende tutti più sereni poi fondamentalmente, ma sì, infatti di base, cioè, noi il cervello proprio c'ha proprio delle componenti, cioè, c'ha proprio dei meccanismi, delle reti che regolano in qualche modo, servono a regolare, a comprendere i fatti sociali come a regolarsi dal punto di vista sociale insieme agli altri, quindi già sto fatto che essendo banalmente vantaggioso aiutare gli altri, perché poi ci sia un senso di comunità per cui insieme più scimmie più uguale più forti banalmente, e ti ritorna la cosa, ha sviluppato anche questo senso, diciamo, di gratificazione che ti dà aiutare gli altri, quindi proprio anche un'utilità dal punto di vista evoluzionistico, diciamo, l'aiutare gli altri, che banalmente ti serve, è fondamentale, è necessario. Allora, facciamo una cosa, così poi mi leggo il commento di Cristian e ci andiamo a chiudere. Sai che facciamo adesso? Ci sentiamo Frank Zappa, così torniamo, e quando torniamo andiamo alle conclusioni e cerchiamo di far capire anche che noi questo episodio l'abbiamo fatto per fare un ragionamento e per darvi magari l'opportunità di continuare a discuterne dopo, durante la chat, oppure fare delle riflessioni fra di noi. Ok, allora torniamo in... non ci piace dire studio, quanto ci piace dire studio, ma in realtà non è uno studio, è una stanza. Allora ragazzi, intanto giustamente Leo mette un... non lo so, non so neanche come decifrare questa cosa di Frank Trattore, insomma è una cosa triste, molto triste, che possiamo bypassare. E invece giustamente, come dice Christian, che non è facile ovviamente parlare di semplice convivenza in una società profondamente individualista, infatti diciamo che il problema di fondo è questo, dove non soltanto si è molto radicalizzato questo individualismo in noi come cultura, ma secondo me si è proprio amplificato con gli anni, e più c'è anche proprio un vizio culturale, che è quello di di mettere, di crescere, di aver cresciuto una generazione di ragazzi che si pensano che, dato che mamma l'ha sempre giustificati, e alla fine è tutto giustificato anche all'esterno, perché ricordiamo che, come abbiamo detto prima, alla fine la famiglia è il primo step verso la vita in comune, e chiaramente se è distorta quella, sarà distorto un po' tutto il resto per il resto della vita, o perlomeno, insomma, diciamo, sarà avvantaggiato ad avere una visione distorta del resto. Insomma, detto questo, io, prima di ringraziare Francesco, vi ricordo la prossima settimana il Grande Reset parlerà di Superlega, questo grosso evento che vorrebbero costruire, che creerà sicuramente dei problemi in un contesto come l'industria del calcio, che molti ovviamente, diciamo, tendono a trascurare il fatto che il calcio, per quanto sia un meccanismo finanziariamente oramai fuori controllo, e per quanto sia un fenomeno discutibile, è comunque un'industria con un indotto, con migliaia di persone che comunque alla fine lavorano in quel contesto e che magari sfamano le loro famiglie, così come altri fanno andando in fabbrica a fare gli operai, e che purtroppo si trova in una condizione abbastanza complicata, ecco, diciamo così, una situazione complicata, molto vicina sull'orlo del collasso a livello europeo, e questo ovviamente avrà delle conseguenze. Questo fatto della Superlega ovviamente, invece di aiutare, potrebbe anche creare una deflagrazione proprio totale, ma vediamo, perché poi questa è una cosa di cui parleranno due persone, una a favore e una contro, e cercheremo di fare poi ovviamente anche lì una sintesi. Io intanto vi ringrazio tutti, grazie insomma per quelli che hanno partecipato a questa puntata, nella quale noi abbiamo fatto delle riflessioni come sempre, perché a noi di dare risposte non ce ne frega un cazzo, anche perché non siamo in grado ma la cosa più bella è quella di partecipare a una discussione e darvi magari spunti, insomma, riflettere durante il resto della giornata, e magari anche nella chat di Dirette Runtime Radio su Telegram. Francesco, grazie. Ma grazie a te, dai, abbiamo portato a casa anche questa puntata. Chi l'avrebbe mai detto, ma insomma, che alla fine ci ha avuto un senso sta puntata. Bene, ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo, mentre domani mattina alle 8:30 sicuramente ci siamo io e Michela. Se non ci siamo domani mattina, ci siamo domenica mattina, quindi seguite ovviamente Runtime Radio su Telegram e riceverete ovviamente tutte quante le informazioni. Seguite Runtime Radio anche su Instagram, perché insomma, a volte più saltuariamente, a volte più frequentemente, pubblichiamo tutte le nostre cose anche lì. Detto questo, grazie a tutti e buona giornata, e mi raccomando, buon Radio Anziano adesso. Esatto, tutti su Radio Anziano, vai.